e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, ti è mai capitato di dire guarda, preferisco non saperlo, quando qualcuno ti stava per comunicare un'informazione un po' riservata? Insomma, un modo di dire per evitare pensieri, rifuggire. Sì, allora, sto... Allora, Carmelo, lasciale accese. Gli scherzi. Preferisco non sapere perché. Fermo con quella manina. Ecco. Preferisco non sapere perché Carmelo mi toglie la linea. Ecco. Guarda, preferisco non saperlo. Mannaggia, guarda. Allora, ti dirò che questa affermazione, questo modo di fare un po' respingente rispetto a certe notizie, vale anche per il nostro futuro pensionistico. E certo. Anche se sappiamo che il nostro assegno potrebbe non essere proprio ricco e che la data in cui potremo andare in pensione è ancora molto lontana, invece è giusto ed importante conoscerle queste informazioni per prendere, se non altro, le misure con quello che ci aspetta. Allora, per questo l'INPS sta mettendo a disposizione di molti italiani questi dati. È la cosiddetta busta arancione che già da maggio tanti potevano andare a leggere online. La novità di questi giorni è che anche chi non è voluto andare a vedere o non c'è riuscito perché non è riuscito a farsi magari le credenziali informatiche, sai, il famoso PIN dispositivo, potrebbe ricevere a casa le informazioni con una busta vera e propria. Più comodo, no? Sì, è più comodo. Però, anche insomma, arancione. Però, quindi, insomma, abbiamo dovuto aspettare fino a novembre. Invece, se ci fossimo attivati subito, magari già da giugno conoscevamo la nostra situazione. Allora, 800 24 00 24, io vi chiedo, avete già consultato queste informazioni? Per che cosa vi è stato utile fare questo lavoro? Che decisioni avete preso? Avete avuto qualche difficoltà con questo servizio dell'INPS? Noi aspettiamo tutte le vostre domande. Allora, Deborah, mi pare di capire che sia importante per i nostri ascoltatori tenere le orecchie ben aperte. Vietato quindi, come si dice, fare orecchie da mercante. E proprio per questo motivo nella seconda parte del programma parleremo della salute dell'udito. Ma oltre all'udito c'è di più. La senti? Sì, cos'è? Senti un po' di fastidio? Allora, se vi irrita sentire il vostro vicino che mastica rumorosamente, forse la causa della vostra insofferenza ha un nome, si chiama misofonia, è un disturbo che comporta la scarsa tolleranza a determinati suoni, anche apparentemente innocui o familiari. C'è chi è particolarmente sensibile al rumore del gesso sulla lavagna, chi non sopporta di sentire masticare il chewing-gum, chi perde la concentrazione sentendo gli scatti di una penna, chi patisce a sentir tirare su con il naso. Se vi riconoscete, sappiate che non correte alcun pericolo, non c'è nulla di grave, anzi, secondo i ricercatori di un'università americana, coloro che sono ipersensibili ai suoni particolari tendono a essere più creativi di quelli che non lo sono. Lo studio infatti ha dimostrato che più le persone sono infastidite dai rumori, maggiore è la probabilità che abbiano un buon punteggio nei test di misurazione della creatività. Allora, oggi all'800 24 00 24 parleremo dei rumori, dei suoni che ci danno fastidio, ma anche dei suoni che per una serie di ragioni forse perdiamo, non sentiamo più come prima. Ci prenderemo cura del vostro udito, che andremo a misurare con una sorta di test di autovalutazione che non fa diagnosi naturalmente, ma aiuta a prendere consapevolezza, perché spesso non ci rendiamo conto che il nostro udito stia calando. Allora, il nostro numero verde a disposizione per raccontarci come ci sentite, quali rumori vi danno più fastidio e se ci sono situazioni che mandano in tilt le vostre orecchie. Penso che la cattiva reputazione dell'INPS, oggi sulla cattiva reputazione che spesso l'INPS ha, pesi il fatto che, siccome è proprio al fronte, cioè impegnato nell'erogare prestazioni, e forse l'amministrazione pubblica che dà più servizi ai cittadini, le vengono attribuiti degli errori, dei limiti che stanno nelle leggi che sono a monte. Noi, certo, abbiamo delle leggi che sono molto complesse, che sono di difficile applicazione. Esatto. E però appunto l'INPS deve applicare queste leggi, non può chiaramente modificarle. Questo era Tito Boeri, presidente dell'INPS, ospite di Lucia Annunziata, domenica in mezz'ora. E tra le tante dichiarazioni ha anche rivendicato la quantità di servizi che questo istituto eroga ai cittadini. Allora, intanto magari vi chiedo all'800 24 00 24 di rispondere a questa domanda: com'è il vostro rapporto con questa istituzione? Vi ha aiutati in qualche occasione oppure avete una relazione difficile? Su uno di questi servizi, la busta arancione, ci concentriamo oggi nella pagina di denari. Mentre l'intervista di Boeri fa parlare e discutere a tutto campo, anche qui su Radio 24, perché ha appunto argomentato su diversi temi, la situazione degli esodati non del tutto risolta, ha detto, perché la platea continua ad allargarsi, soprattutto ai lavoratori delle piccole aziende che non sono protetti da nessun accordo. Poi Boeri è tornato anche a proporre il taglio del vitalizio ai politici, se ne è parlato stamattina anche nella trasmissione di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Poi c'è il tema della flessibilità in uscita, ovvero la questione che riguarda quei lavoratori che vorrebbero uscire prima dal lavoro, anche se sono in mancanza di tutti i requisiti, sono però disposti ad accettare un taglio dell'assegno. Noi oggi non parliamo di tutto questo. Parliamo di questo bel colore autunnale, ma anche estivo, l'arancione. Sì, è anche un po' il colore del mio cappotto, se hai notato, guardalo certo. Là. Informazione mi sono messa stamattina. Il cappotto per essere in sintonia con il tema di Cuore Denari. Io sono invece grigissima stamattina. Torniamo a parlare della busta arancione, cioè della simulazione IMSS, con cui si dà la possibilità ai lavoratori italiani, accedendo al sito dell'IMSS, di calcolare a quanto ammonterà il nostro futuro assegno pensionistico. La sperimentazione della busta arancione è partita in maggio gradualmente e da allora quanti lavoratori hanno visualizzato la propria posizione? Noi stamattina parliamo di tutto questo con una gradita conoscenza di Radio 24. Domenico Comegna, esperto di questioni previdenziali e membro del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali. Dottor Comegna, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Mamma mia, come sentiamo male questo collegamento telefonico, lo dobbiamo subito allora ripristinare perché è orribile. Vediamo un po', allora lo stiamo richiamando, vediamo un po', oppure vediamo se può avvicinare magari la sua bocca, la cornetta. Adesso proviamo a capire se appunto la qualità può migliorare così miracolosamente. Noi intanto appunto vi ricordiamo ancora una volta il numero verde per parlare della busta arancione, un certo. Numero verde per parlare della busta arancione, 800 24 00 24. Ci state già scrivendo i messaggi al 349 238 6666. Loredana, sì, infatti Loredana da Trento chiede per esempio se anche per ex INPDAP è possibile leggere i dati della busta arancione online. Io credo di sì, Loredana, credo che sia possibile farlo anche per tutti coloro che hanno versato contributi a diversi enti pensionistici. L'INPS è in grado di farci una nostra fotografia piuttosto dettagliata sulla regolarità dei contributi che abbiamo versato nel corso della nostra vita lavorativa. Glielo dico per esperienza diretta perché io ne ho INPGI ed EMPALS e sul sito dell'INPS vedo la mia situazione pur non avendo versato direttamente all'INPS. Abbiamo il dottor Comegna? Sì. Pronto? Sì, mi sente ora? Adesso meglio di prima, grazie, eccoci qua. Allora, abbiamo ricostruito ai nostri ascoltatori la questione della busta arancione, ne avevamo parlato a maggio perché a partire da quel mese nelle case di molti italiani era virtualmente arrivata questa busta, ovvero l'estratto conto dei contributi versati. Insieme alla fotografia di quanto versato, la novità della busta arancione che contiene anche una simulazione della nostra futura pensione. Dottor Comegna, lei che cosa pensa di tutta questa operazione che è partita, alla quale Tito Boeri tiene molto, e secondo lei insomma è utile o no per i lavoratori prendere coscienza molto concretamente di qual è la loro situazione appunto pensionistica allo stato attuale delle cose? Beh sì, senz'altro sì, è una risposta positiva. La necessità di conoscere il proprio futuro è evidente, soprattutto per quanto riguarda i giovani, i quali, come lei accennava poc'anzi, non avranno certamente una pensione che avevano i loro genitori, molto generosa sotto certi aspetti. Per cui prima si sa che fine farò e meglio posso attrezzarmi per correre i pari in un certo qual modo. Dottor Comegna, mi scusi se la interrompo. Allora, siccome la qualità telefonica stamattina, non so quale tipo di congiuntura astrale si sia manifestata, è davvero pessima, noi facciamo una cosa: se a Carmelo è pronto, mandiamo in onda il traffico, riproviamo di nuovo a contattarla e quindi cerchiamo di perfezionare appunto questo collegamento. A tra pochissimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Ho fatto un sogno, sotto un cielo arancione. E voi lo sapete perché si chiama busta arancione? Dovrebbe essere facile a rispondere anche a questo domandone, anche se lo rifacciamo questa mattina, perché era stato già l'oggetto del nostro domandone di maggio, quando avevamo realizzato un'altra puntata su questo argomento. Allora, ci stiamo riferendo alla simulazione IMSS, con cui si dà la possibilità ai lavoratori italiani, accedendo al sito dell'istituto, di calcolare a quanto ammonterà il proprio assegno pensionistico, ed è il nostro domandone di oggi, se volete rispondere, ma anche se volete commentare con noi le novità degli ultimi giorni, perché abbiamo avuto per molti lavoratori la possibilità di accedere a questo servizio sull'INPS. È stata all'inizio una fase sperimentale, poi è entrata sempre più nel concreto, e a scaglioni, a secondo della loro età, i lavoratori italiani hanno potuto accedere a questo servizio. Noi stamattina stiamo con qualche difficoltà tentando di parlarne con Domenico Comegna, membro del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali. Ha fatto tantissime trasmissioni con noi in passato, lo abbiamo riacciuffato. Facciamo una prova voce, dottor Comegna, adesso vediamo un po' com'è. Beh, io ci provo, penso. Questo è meglio di prima. Questo è meglio di prima. Abbiamo cambiato lo strumento. Bravo. Vabbè, esatto, lo strumento lo abbiamo cambiato, ma il tema è rimasto lo stesso, dottor Comegna. Allora, abbiamo avuto una fase sperimentale lo scorso anno che aveva riguardato 12.000 cittadini, poi è partita la fase più corposa di accesso al sito IMSS per avere la possibilità di fare la fotografia dei propri contributi versati. Ha riguardato una platea di circa 10 milioni di persone, si è passati dagli under 40 e poi progressivamente la platea si è allargata. L'obiettivo è arrivare ad informare a fine anno 18 milioni di persone. In questi giorni però, e leggevo proprio ieri sul Libero Quotidiano, si diceva: l'operazione busta arancione parte da oggi, lunedì 2 novembre. A me è venuto un mezzo infarto, perché ho pensato io, ma allora che cosa abbiamo cosa ho raccontato a maggio? Non ho capito nulla. Poi ho capito, dottor Comegna, che guardando con attenzione il quotidiano, appunto firmato da Maurizio Del Pietro, si soffermava su tutti quei lavoratori che non hanno chiesto le credenziali informatiche, che riceveranno in questi giorni la busta, direi in carne ed ossa, ma di carta vera e propria. È così? Sì, pare sia così, almeno da quello che ci risulta dalle comunicazioni INPS. E questi dovrebbero essere, queste 5 milioni e mezzo di persone, l'80% lavoratori dipendenti e il resto lavoratori autonomi, compresi una piccola parte di cosiddetti parasubordinati, insomma, quelli che sversano la cosiddetta gestione, che sono tra l'altro i più interessati, perché in gran parte sono giovani, per tutti, e più quindi interessati a conoscere il proprio futuro pensionistico. Per quanto invece riguarda gli altri, c'è la grossa platea ancora dei dipendenti pubblici, e l'INPS ha detto che sistemerà la questione entro la fine dell'anno, o meglio la prossima estate, e comunque entro la fine dell'anno. Quindi, questo per rispondere alla domanda dell'ascoltatrice che ci ha scritto prima, Loredana, per ex INPDAP è possibile leggere i dati della busta arancione online, quindi non è ancora possibile avere la visualizzazione? Adesso no, perché si ricorderà, come penso gli ascoltatori ricorderanno, con la riforma Fornero l'INPDAP è stato inglobato dall'INPS, e all'inizio c'è stato un problema di comunicazione dei dati, perché ognuno dei due enti provvedeva a sé. Quindi, per assemblare questi dati e rendere un archivio unico ci è voluto molto tempo, e ce ne passerà ancora. Quindi la prossima estate, o entro la fine dell'anno, come ha dichiarato il presidente Boeri, comunque si risolverà anche questa situazione. Certo. Allora, questa operazione, l'abbiamo detto tante volte, dovrebbe rendere più consapevoli i lavoratori italiani dell'assegno previdenziale su cui potranno contare durante la loro vecchiaia. È un lavoro di grande importanza che, tra l'altro, a maggio, quando è partito, si è incrociato anche, ironia della sorte, lo avevamo enfatizzato anche questo aspetto, con l'operazione TFR in busta paga, che invece non aveva ricevuto grande interesse da parte dei lavoratori. E, detto questo, dottor Comegna, la visualizzazione della nostra posizione provvidenziale sul sito dell'INPS è un lavoro che dovremmo fare tutti, un accertamento che dovremmo fare tutti, no? Ma a suo avviso, a parte i giovani, secondo lei quali tipi di lavoratori dovrebbero essere particolarmente interessati ad andare a fare una verifica di queste informazioni? Beh, quelli ovviamente quelli prossimi alla pensione, anche perché noi vogliamo ricordare una cosa importante, la busta arancione dà anche la possibilità di controllare il proprio rapporto assicurativo, cioè e aiuta anche a vedere, a sistemare alcune cose, per esempio periodi che risultano scoperti e quindi si può rimediare, nel senso che è possibile diciamo così fornire documentazione successiva che possa sistemare le cose. Quindi se io sono prossimo alla pensione ho tutto l'interesse a guardar bene e assicurarmi che le carte, tra virgolette, siano tutte a posto, certo, per non avere sorprese alla vigilia del pensionamento. Allora, naturalmente molti ascoltatori ci stanno chiedendo se volessi andare a fare questa verifica molto rapidamente, che cosa devo fare. Adesso vi daremo l'ABC del controllo della busta arancione virtuale o online, che in realtà ha un nome preciso, dottor Comegna, perché bisogna accedere al link del sito IMSS che si chiama La tua pensione, quindi è molto più semplice della busta arancione. Sì, ma le operazioni sono abbastanza semplici. Il perno della situazione è quel famoso PIN, cioè bisogna essere in possesso di una password. È ovvio, questo serve per tutelare la privacy. Certo. Ci mancherebbe altro che io potessi entrare e guardare la sua posizione e come andare a curiosare sul suo conto in banca, e non mi sembra possibile. Tra l'altro, quindi, esatto, una prima parte. Prima cosa da fare è procurarsi questa chiave per entrare, tutto lì. Allora, Paolo da Parma però non è tanto contento del funzionamento di questo servizio. Paolo, benvenuto. Buongiorno, vi saluto tutte e gli ascoltatori. Dunque, io ho avuto problemi sia con i vecchi stati conto, persino con gli stati conto contributivi, e qualche mese fa ho guardato sul sito online la mia pensione e non c'era la simulazione. Hanno tirato fuori la scusa che in anni passati ho lavorato in una fabbrica e che ufficialmente era agricoltura, cioè lavoravo sul pomodoro. Lei perché dice hanno tirato fuori la scusa? Perché non è vero, lei lavorava per questa azienda, non era lavoro agricolo, quindi. No, prima hanno detto che avrebbero dato la simulazione per tutti, poi comincia a tirare fuori con me questa scusa, soprattutto che con altri hanno tirato fuori altri argomenti. Lei, Paolo, è assolutamente certo che abbia tutti i contributi versati, tutta la regolarità dei contributi versati? Ma quelli penso di sì, però il problema è quello del calcolo della pensione. Sono anni che gli sportellini non lo fanno più. Allora, dottor Comegna, è così? Diciamo che in passato, prima della tua pensione, prima della famosa busta arancione o online o cartacea, se io andavo all'INPS e chi è caduto, Paolo o Comegna? Non fatemi spaventare. No, Comegna c'è. No, il dottor Comegna con noi. Sì, perché ti viene un cardiopalma. Esatto. No, Che non abbiamo il cardiologo stamattina, abbiamo il dottor Franzetti per l'udito. Un motorino. Esatto. No, allora, in passato non era possibile avere una simulazione dell'assegno pensionistico sulla base dei contributi versati, perché l'ascoltatore. In effetti l'INPS si è sempre rifiutato in passato di fare, anche per non mettere, diciamo così, per non dare informazioni sbagliate. Consideriamo che gli elementi che fanno sono molteplici anche per quanto riguarda il futuro, no? Sì. Per esempio, si pensi al sistema contributivo, qui cambiano i coefficienti di trasformazione del capitale un giorno sì e un giorno no, per cui c'è di mezzo il PIL, cioè sono tante le variabili, per cui in passato. Oggi però abbiamo sistemi come questo della la busta arancione che potrebbe, senza tener conto però che ci sono alcune categorie come quelli dell'agricoltura, che non presentano archivi telematici molto sì, aggiornati, molto sofisticati, puliti, ecco. Molto puliti, sì, sono un po' un po' sporchi, diciamo. Quelli, per esempio, i marittimi, ci sono alcune categorie particolari che hanno bisogno ancora di essere sistemati dal punto di vista telematico. Da qui nasce, diciamo così, l'impossibilità a volte di dare il servizio completo. noi parliamo di catene particolari, insomma. Esatto, e comunque no, ribadiamo, riesce a fare la visualizzazione. Certo. E poi ecco, come giustamente ricordavamo prima, adesso già è arrivato il momento di andare a sentire il giornale radio, teniamo conto che ci sono molte persone che magari hanno una carriera professionale molto frammentata, versamenti ad enti previdenziali diversi, per cui non è così banale e semplice ricostruire tutta la propria posizione. Ci fermiamo perché c'è il giornale radio, poi sentiremo Gianni da Parma, poi faremo le nostre conclusioni con Domenico Comegna, e intanto linea ai colleghi della redazione. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Cuore e denari. Dal 1° di maggio noi daremo la possibilità ai lavoratori italiani di poter sapere quali saranno le loro pensioni future e anche di poter valutare quali sono le implicazioni di scegliere diverse date quanto al pensionamento, di avere dei cambiamenti nel loro profilo retributivo e di cambiare le loro retribuzioni e i loro contributi. Quanto questo avrà effetti sulla loro pensione. Queste erano le parole di Tito Boeri, presidente dell'INPS, il 29 aprile scorso. Da maggio infatti è possibile utilizzare il simulatore sul sito dell'INPS per calcolare l'assegno pensionistico che ci spetterà in futuro. Si tratta dell'operazione La mia pensione, bisogna chiedere il PIN al sito dell'INPS, o anche potete andare presso uno sportello e farvi aiutare a compiere l'operazione. Viene rilasciata di questo PIN una prima parte immediatamente, il resto arriva per posta nel giro di qualche giorno, ma anche per chi non si è avventurato in questa scoperta informatica del proprio futuro previdenziario, l'operazione ora viene estesa in modalità cartacea, e infatti a 5 milioni e mezzo di lavoratori praticamente la busta arancione che sarebbe possibile consultare online arriva invece fisicamente a casa, e questo ha fatto scattare un po' di commenti in questi giorni sui giornali. Abbiamo commentato proprio poco fa quanto scriveva ieri Libero Quotidiano, che commentando proprio la circostanza che a molti lavoratori arriverà a casa questo documento, diceva ieri, sosteneva, l'operazione busta arancione parte da oggi, in realtà non è così. Detto questo, poi i colleghi scrivono quello che vogliono. Noi stamattina stiamo commentando tutto questo con Domenico Comegni, esperto di questioni previdenziali e membro del comitato tecnico scientifico di Itinerari Previdenziali. Stanno arrivando anche molte domande da parte vostra all'800 24 00 24. Dottor Comegna, molti stanno lamentando il fatto che non hanno una fotografia proprio cristallina e chiara della propria situazione previdenziale e contributiva. Vogliamo ribadire un po' le motivazioni che possono stare dietro a questa difficoltà, perché dicevamo prima, molti lavoratori magari hanno fatto un percorso professionale articolato, tortuoso, hanno versato i contributi a diversi enti, quindi non sempre per l'INPS è facile, possibile rapidamente mettere insieme tutte queste informazioni. Sì, praticamente ciò che ha detto lei è vero. Ci sono molti casi in cui, visto che l'interessato ha versato contributi a diversi enti, e quindi è difficile mettere, è sempre problematico, insomma, mettere insieme tutti i dati. Ma ciò, con l'andare del tempo, si sta migliorando sicuramente. E io sono convinto che entro la fine del 2016, come ha più volte dichiarato il presidente Boeri, la situazione dovrà arrivare a regime. Esatto. Insomma. Non abbiamo preoccuparsi più di tanto. Bisogna ancora di tutto l'anno prossimo. D'altronde ricordiamo che questa operazione della busta arancione è stata annunciata da tanti governi in passato, se ne sono teoricamente incaricati anche dirigenti dell'INPS delle passate gestioni, quelli precedenti appunto a Boeri. Di fatto nessuno aveva mai avuto il coraggio di fare questa operazione, perché far scattare ad ogni lavoratore la fotografia della propria situazione previdenziale, la fotografia del futuro assegno pensionistico, che è molto deludente, era un'operazione della quale nessuno voleva prendersi la responsabilità. Per cui, popolare o no, dottor Comegna, bisogna dare atto a Boeri di aver avuto il coraggio appunto di farlo, perché questo poi va detto, piaccia o non piaccia, questo è vero. E quindi l'ha fatto. Senta, prima di sentire ancora magari un ascoltatore, prima di passare la linea a Nicoletta, perché vedo già molti ascoltatori attivissimi già con le proprie domande sull'udito, sui suoni che infastidiscono. Vogliamo già salutarlo il nostro nuovo ospite, che è arrivato, si è messo già arrivato. Seduto come Re Artù. Buongiorno al dottor Franzetti, primario di Otorino Laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che è tornato a trovarci per non mandare in pensione il nostro udito. Esatto, perché anche quello insomma è un segnale degli anni che passano, no? Quando comincia un pochino a dare i suoi problemini e disturbi, immagino. Io prima stavo operando, ho sentito che mi avete citato e allora sono venuto. È arrivato. No, tra l'altro magari per chi ha qualche problema di udito, magari percepisce anche un piccolo assegno di invalidità, quindi tutto sempre un po' legato anche ai temi previdenziali. Dottor Comegna, prima di sentire se riesco Giovanni da Parma e Ivano da Napoli, però volevo commentare con lei una notizia di, tra virgolette, attualità, perché è un tema importante questo. Gli assegni pensionistici si adeguano al costo della vita, no? Stiamo vivendo però uno scenario deflazionistico. L'inflazione è ferma, non solo i prezzi non crescono, ma anzi tendono ad andare ad arretrare indietro in terreno negativo, ed è questo il grande problema anche della Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Ma allora io mi chiedo, perché si stanno chiedendo anche molti pensionati tutto questo, che cosa succederà agli assegni pensionistici nei prossimi mesi? È vero che alcune categorie di importo subiranno non solo delle decurtazioni, non cresceranno, ma addirittura qualche pensionato sarà chiamato a ridare indietro qualcosina? Eh beh, certo, è così. Purtroppo è una situazione che sa un po' di beffa. Invece di aumentare come al solito, come dovrebbe essere a gennaio, la pensione, si rischia addirittura che possa scendere. Sicuramente scenderà, in quanto a gennaio del 2015, sulla base di una previsione di inflazione pari allo 0,3%, in realtà il dato definitivo del 2014 è risultato pari a 0,2%, per cui tutti i pensionati hanno un debito dello 0,1% di quanto hanno percepito a gennaio. Si traduce, per non destare così preoccupazione, certo. Allarme inutile, sarà una questione di poche decine di euro, per esempio una pensione di 1000 euro, insomma, dovrà restituire circa 11 euro. Comunque, però fa impressione il fatto che ci sia la decurtazione, e con 1000 euro non è che esattamente uno si goda proprio la vita, ecco, per cui magari anche 11 euro con cui poi è il principio, esatto, dai. Infatti è comunque una piccola cifretta con cui magari un pensionato la spesuccia del giorno se la fa, anche pane, latte e poche altre cose le porta a casa, per cui anche quelle fanno comodo. Rapidamente sentiamo Gianni da Parma e poi passiamo la linea al tema di cuore. Gianni, benvenuto. Sì, buongiorno Nicoletta e Deborah. Buongiorno. Volevo intervenire appunto perché io sono andato a vedere subito, appena ho saputo, nel sito dell'INPS. Ci vado spesso. Se posso aprire una parentesi, il PIN bisogna richiederlo ogni 3-4 mesi, potrebbe essere allungata un pochettino la durata. Comunque, io nel 2009 mi sono licenziato da un'azienda dove ero a tempo indeterminato e ho cominciato a lavorare a progetto, perché faccio l'informatico. E quando sono andato a vedere nel sito la mia situazione, vedo la mia situazione corretta dei giorni lavorati, ma il sito mi ha risposto che non era possibile fare nessuna previsione, appunto perché avevo due gestioni, la classica e quella separata. Sì. Ecco, quindi voleva sapere appunto, magari ecco, chiediamo un po' un commento a Comegna, sì, su questo. Andando a lavorare in giro per l'Italia, poi è difficile trovare il tempo di andare nell'ufficio INPS quando hanno comunque tutti gli incartamenti già. Certo. Allora, Comegna, commentiamo appunto il caso di Gianni e magari anche quello di molti lavoratori che comunque in realtà, nonostante l'operazione sia partita proprio con questo obiettivo, hanno una visualizzazione dei contributi versati, quindi hanno la visualizzazione chiara del passato, ma non hanno la simulazione dell'assegno pensionistico del futuro. Secondo lei anche Gianni da Parma deve aspettare che tutto il sistema entri a regime entro la fine del 2016, oppure una posizione come quella di Gianni non potrà mai essere accontentata? No, mai non direi, però deve aspettare moltissimo, immagino, anche perché la situazione dei, diciamo così, dei collaboratori o di quelli cosiddetti iscritti alla gestione separata è una situazione, ripeto, che è molto molto difficile da gestire, nel senso che le variabili sono tantissime, per cui fare una simulazione di quel tipo insomma è quasi impossibile. Quasi impossibile. Certo. Anche perché potrebbe aver diritto a due pensioni separate, quello da dipendente quando lo era, esatto, e quella successiva che si è costruita in quanto lavoratore autonomo. Diventa, certo, diventa una situazione molto difficile. Allora, dottor Comegna, grazie per essere stato con noi. Tra l'altro vedo che ci stanno scrivendo in molti chiedendoci, magari qualcuno ha il PIN dispositivo, non è mai andato a fare la simulazione sul sito dell'INPS e allora si aspetta di ricevere a casa la busta arancione nelle prossime settimane. Comegna, ma secondo lei la riceve chi non ha mai neanche fatto, non si è mai neanche fatto fare il PIN dispositivo, oppure l'INPS deduce che avendolo fatto tu la vai a controllare, quindi non ti manda la busta arancione? Sinceramente non lo so, prenderei per la seconda seconda situazione, certo. Quindi ecco, insomma, è possibile che ci sia stato un tentativo e l'INPS adesso non fa altro che sollecitare la richiesta. Monitoreremo, chiederemo all'INPS direttamente. Grazie dottor Comegna, buona giornata. Buongiorno, grazie, buona adesso giornata. Drizziamo le antenne perché ci occupiamo del nostro udito insieme al dottor Franzetti. Faremo anche una sorta di gioco test di autovalutazione, misureremo il nostro udito, naturalmente non serve per fare diagnosi. Le ho rubato le parole di bocca, vero dottor Franzetti? Assolutamente sì. Allora, quando lei era ancora lontano in sala operatoria, per introdurre il tema della puntata, abbiamo citato uno studio secondo cui chi avverte un particolare fastidio nel sentire dei suoni anche familiari, come ad esempio il vicino che mastica un cevin, piuttosto che il gessetto sulla lavagna, il rumore del trapano, è quello che dà fastidio, da morire, mi viene una pelle d'oca come il gessetto, anche devo dire che anche il vicino che mastica rumorosamente mi dà un po' fastidio, sembrerebbe che tutte questa sorta di allergia ai suoni, che si chiama misofonia, giusto, indicherebbe però persone particolarmente creative. Da qui l'invito ai nostri ascoltatori di scriverci o di chiamarci per dirci quali sono i suoni che li infastidiscono. Chiamateci, mi raccomando, e raccontatecelo al nostro numero verde, perché sappiate che se avete un suono particolarmente fastidioso, un ascoltatore o ascoltatrice, non ricordo più il messaggio, scriveva il rumore della mela quando addenti la mela, quando provi, allora già questo, non solamente sugli altri ma anche quando la addenta lei, e quindi non mangia mele, non le morsica mai. 800 24 00 24. Dottor Franzetti, lei di orecchie se ne intende, è frequente questa sorta di allergia al suono? Sì, non è una vera e propria allergia, nel senso che ci sono dei casi in cui qualsiasi cosa fa una persona insopportabile da fastidio. Eh beh, certo, quella è una cosa di ma pelle. Ma questo è una cosa che va superata, quindi stiamo parlando invece di un fastidio vero, organico. E questo nasce da un meccanismo che spiego velocissimamente. Nella parte nervosa dell'orecchio, che si chiama coclea, ci sono due tipi di ciglietta. Sì. Alcune si chiamano interne, altre esterne. Quelle interne captano il suono e mandano il segnale. Quelle esterne invece coordinano tutti i segnali. Sì. Allora, immaginiamo un ginnasta che sa fare con ogni arto un movimento, ma se non coordina i movimenti cade. Certo. È lo stesso discorso. Quando uno sente tutti i suoni, ma ce n'è uno che non è coordinato con gli altri, dà fastidio. Quindi vuol dire che potrebbe esserci un deficit delle cellule ciliate esterne. È un problema di cigliette, vedi? Non è di antipatia, ma è un problema di cigliette. Non mi sopporti. No, è un problema, ho un problema di ciglia con te. E guarda caso, per il discorso che si faceva prima, questo coordinamento delle cigliette è estremamente coerente con l'attività cerebrale. Allora, 800 24 00 24 per non mandare in pensione il nostro udito, abbiamo confezionato per voi una sorta di autotest, di valutazione, chiamiamolo così, un gioco. Dottor Franzetti, diciamo tutte le avvertenze del caso, non fa diagnosi. Sì, è un gioco che non serve per far diagnosi, ma serve semplicemente per rendersi conto se il nostro udito è estremamente funzionante oppure dobbiamo farci attenzione. Quindi non fa diagnosi, ma fa rizzare le orecchie. Se volete partecipare, abbassate piano piano il volume della vostra radio sino a quando sentirete la mia voce come se fosse sussurrata. Poi partirà un elenco di parole, alcune hanno senso, altre sono senza senso. La scelta non è casuale, vero dottor Franzetti? No. Perché? Da certo non è casuale, perché noi cerchiamo di anticipare i suoni, mentre invece qui andiamo a vedere proprio come funziona l'orecchio, quindi prendiamo in giro anche il cervello. Bene, allora abbassate piano piano il volume della vostra radio, c'è Carmelo che mi guarda con degli occhi praticamente fuori dalle orbite, sino a sentire appena la mia voce. Prendete carta e penna, perché sennò poi testiamo anche la vostra memoria. Se siete pronti partiamo, ok? Andiamo con le parole. Giglio, bile, cane, vile, pane, cufe, cheju, megi, chize, dufi. Bene, adesso riportate il volume della radio a livelli normali e tra poco vi daremo il risultato. Ecco allora le parole. Di Giglio, nuovo. Bile, cane, vile, pane, cufe, cheju, megi, chize, dufi. Dottor Franzetti, allora in tutto sono 10, diamo un po' i risultati per chi ha riconosciuto tutte le parole, soluzione A, benissimo, può spegnere la radio e andare a casa, sì, no, ascoltarla anche spenta, insomma, sente benissimo. Allora, per chi ha riconosciuto prevalentemente le parole che hanno un significato e invece ha fatto un po' più fatica sull'altro tipo di parole, secondo me nella vita deve fare un pochettino più attenzione. Perché potrebbe esserci proprio un deficit di attenzione. Mentre invece per chi ha riconosciuto inversamente le parole che non hanno significato e invece ha sentito con più difficoltà quelle che hanno significato e con molta fatica, potrebbe valer la pena fare un esame audiometrico. Allora, voi intanto continuate a chiamarci e a raccontarci se ci sono dei suoni, dei rumori che vi danno particolarmente fastidio, o anche avvertite che alcuni suoni non li sentite più come una volta. È abbastanza difficile, perché tendiamo ad abituarci al calo dell'udito, facciamo insomma un po' di necessità virtù, succede anche un po' per la vista, ma oggi noi vogliamo, con l'aiuto del nostro ospite e di questi sorti di gioco test, aiutarvi a prendere consapevolezza. Intanto andiamo ad Angelo da Salerno e poi abbiamo Alessandro da Verona. Angelo, buongiorno. Buongiorno, sono Angelo. Buongiorno. Eccolo qua. Buongiorno Angelo. Quello che dà fastidio è il rumore anche del metallico, della forchetta o del cucchiaio quando c'è qualcuno vicino che urta vicino i denti. È una cosa che fa venire un po', non la pelle d'oca, ma le mani che prudono. Sì, ecco. Le mani che chiudono, ecco. È la stessa sensazione. Oltre al famoso gessetto quando riga sulla lavagna, tengo mio figlio piccolino che quando gioca che gratta, è un rumore fastidioso. A lui non dà fastidio, ma a me proprio quel rumore è impressionante, mi disturbo proprio forte quando gratta. E poi il rumore, caso strano, la goccia dell'acqua, quando sento scorrere l'acqua che rimane un poco alla fontana, quelle goccioline che scendono, che battono sulla parte metallica del lavabo. Sì, quella proprio... tic, tic tic, sì, da un po' sui nervi, sì, sul Angelo, sul metallo proprio. Quindi noi abbiamo, perché vogliamo scrivere un po' l'hit parade dei rumori più fastidiosi, il gessetto sulla lavagna, le posate e la goccia che cade sul lavandino. Dottor Franzetti? Ma allora, mia moglie non tollera il rumore delle posate esattamente come il signore, e infatti io sono contentissimo, perché fino a quando non tollera il rumore delle posate e tollera me, vuol dire che siamo a cavallo. Così, vero? Almeno se la prende, esatto, con qualcun altro. No, a parte gli scherzi, è vero, sono proprio dei rumori, e guarda caso sono i rumori che sono all'estremo delle frequenze, cioè sono di solito o rumori acuti striduli o rumori molto cupi, ripetuti. Andiamo a Sergio da Fermo, buongiorno. Sergio da Fermo. Buongiorno Sergio da Fermo. Ci allora, dice? Sì. Che vi dico, è un problema grosso, sembra banale ma è grosso. Io fin dall'età di 8-7 anni, sì, non sopporto, non riesco a resistere a chi fa rumore quando mangia. Beh, problema sì. Beh, certo. E anche la minestra soprattutto, ma tutti i rumori, cioè non deve mangiare a bocca chiusa con me. Se beh, questo Sergio, questo dovrebbe essere buona educazione. Lo so, ma non tutti lo fanno. Lo so. Ti trovi sul treno con una persona davanti, io devo uscire. I miei familiari, se arriva qualche ospite, devo stare attento dove, se mi metto vicino a lontano. Dove la mettono, certo, perché insomma diventa dura, la vita sociale diventa dura, ecco. Allora, ho provato a resistere, ma nella vita, perché ormai è più di 50 anni che c'ho questo problema, ma tanto non c'è il verso. Non Sergio, devo però lei si rassegni, pensando che almeno secondo questi studi lei è una persona particolarmente creativa. Dottor Franzetti, continuiamo naturalmente a scrivere il nostro elenco, ma poi testeremo il nostro udito. L'abbiamo fatto con il primo test per individuare i suoni, lo faremo anche nella seconda parte della trasmissione dopo i mercati. Ma c'è un aspetto, noi siamo un po' rassegnati all'idea che con il passare degli anni l'udito si riduca, no? Il nonnino viene di solito raffigurato come un po' duro d'orecchio, e i dati dicono che un adulto su tre con più di 60 anni, il 50% sopra gli 85 anni, riporti sordità. Sappiamo però che il nostro udito potrebbe avere anche problemi per cause diverse, no? Che non sono solamente gli anni, e quindi le infezioni, penso ai farmaci, anche dei traumi o anche delle forme genetiche. Quindi lei ci aiuterà oggi a individuare quali sono i pericoli per il nostro udito, i fattori di rischio su cui noi possiamo intervenire. Ma a proposito, siamo tutti destinati con gli anni a diventare un po' più sordi, un po' come succede per la vista, diventiamo presbiti, e per l'udito? Beh, un certo calo uditivo che si chiama presbiacusia negli anni, parliamo però oltre i 75-80 anni, è fisiologico, però di solito è un calo uditivo che non va a interessare o rendere difficoltosa la comunicazione. Perché? Perché avviene sui toni molto acuti, e di solito invece le frequenze della vita di relazione sono frequenze medie. Sì. Per cui quando invece ci sono o precocemente o delle cadute sulle frequenze invece medie, lì bisogna cercare di aiutare. Allora, dal tappo di cerume all'otite alla perforazione del timpano, tutte i fattori e le cause che possono mandare KO, insomma, il nostro udito, o in qualche modo danneggiarlo in modo serio, all'800 24 00 24. Continua naturalmente la richiesta di mandarci i suoni che vi danno fastidio. Vogliamo scrivere le hit parade dei suoni più fastidiosi. Adesso invece un suono che ci piace. Sì, non sempre. Non ecco, sempre, diciamo, però è la voce di Deborah che ci racconta i mercati. State ascoltando un programma offerto da Stufe, Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Cuore e denari. Santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina. Io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara. Servono per sentirti meglio quando mi parli. E voi come ci sentite? 800 24 00 24. Il nostro udito può abbassarsi, può essere una situazione, un disturbo temporaneo, transitorio, ma può essere anche il segnale di un problema più serio. Oggi è tornato a trovarci il dottor Andrea Franzetti, ci aiuterà a raccogliere tutte le informazioni utili per distinguere le due situazioni. Una cosa è certa, i nemici del nostro udito sono tanti e diversi tra loro. Volendo fare un elenco sommario, si potrebbe partire dal banale tappo di cerume, per parlare poi delle infezioni, delle otite ricorrenti o non adeguatamente curate, senza naturalmente dimenticare anche la salute del nostro timpano. Allora, dottor Franzetti, seguendo l'anatomia del nostro orecchio, proviamo a intercettarle, ma prima di parlare di quando e come e cosa non fa funzionare il nostro udito, cerchiamo di capire che cosa lo mette in grado di funzionare alla perfezione. Velocissimamente. Allora, il nostro organo di senso, che è l'udito, è il più complesso di tutti gli organi di senso, perché utilizza le onde sonore, che poi si trasformano in stimoli meccanici, vibrazioni e leve all'interno dell'orecchio, dove ci sono degli ossicini, eccetera. Poi diventa un sistema chimico, perché vengono liberati dei neurotrasmettitori, e poi diventa lungo il nervo un sistema elettrico. Quindi praticamente possiamo avere dentro questa meraviglia della natura una serie di problematiche. Quindi quando noi parliamo dell'interruzione dell'onda, possiamo parlare del tappo di cerume, possiamo parlare di un problema del timpano. Certo. No? Però possiamo parlare anche di un'interruzione di qualcosa che succede all'interno dell'orecchio, che chiamiamo orecchio medio, che può essere magari un banale versamento di catarro tipico dei bambini. Sì, no? Quindi si prendono magari il raffreddore. Non, e quindi siccome questa parte è collegata col naso, e quindi da un tubicino che si chiama tuba si accumula del muco, la tuba si chiude e si forma come una specie di secondo tappo dietro al timpano, che non fa funzionare il sistema meccanico degli ossicini. Oppure, sempre sugli ossicini, possono esserci patologie come l'autosclerosi o come altre patologie che non fanno muovere gli ossicini, che sono progressive nel tempo sugli adulti. Quindi questi piccoli radarini, perché sono in realtà dei radar, no? Che catturano i suoni, certo, e poi li mandano al cervello che li interpreta, sono veramente un mondo, un microcosmo estremamente sofisticato. Estremamente sofisticato, che è un po' la sua passione. Tutti i medici che quando intervengono a cuore denari ci raccontano l'organo di cui si occupano come una meraviglia. Sì, sono appassionati. Un amico, esatto, vedi? Infatti. Allora, dottor Franzetti, andiamo a sentire il rumore che Rinaldo non sopporta, e poi cerchiamo, seguendo l'anatomia del nostro orecchio, di intercettare i nemici. Rinaldo, buongiorno. Buona giornata. Anche buongiorno a lei. Io non sopporto, ad esempio, quando leggo il giornale praticamente tutti i giorni, sentire il rumore degli elettrodomestici, dalla lavastoviglie, dalla lavatrice, e poi soprattutto quando qualcuno mangia, quando sto leggendo. Deve quindi spostarsi. Mi irrita. Le irrita, dobbiamo invitarlo qui in studio, così, no? Mette le cuffie, lo isoliamo completamente. Grazie Rinaldo, buona lettura e buon ascolto. Andiamo poi ad Alessandro da Verona, ma prima, dottor Franzetti, qual è il primo nemico che intercettiamo? Seguiamo l'anatomia del nostro orecchio. Beh, sicuramente abbiamo il problema del cerume, che è una banalità da un certo punto di vista, è sicuramente uno dei problemi più diffusi, perché spessissimo si forma il cerume dell'orecchio. Noi dobbiamo sapere che intanto la norma igienica base è che nell'orecchio ci sono, nel condotto uditivo, delle piccole ciglia che spingono il cerume già verso l'esterno. Il cerume è fisiologico nel condotto. Certo. Se uno ha delle dermatosi o delle patologie particolari, ne produce in eccesso. Certo. E quindi a volte le ciglia non riescono a spostare tutto il cerume verso l'esterno. Se noi però siamo fanatici del cotton fioc, sì, no? Per dirne una, no? Allora cosa facciamo? Spingiamo verso l'interno, perché non vogliamo vedere il cerume verso, certo, l'esterno, e quindi facciamo il lavoro inverso delle ciglia, e quindi aiutiamo a formare un tappo. Tra questi due estremi, non far niente e spingere violentemente tutto verso l'interno, ci sono delle vie di mezzo. Sì, ad esempio lavarsi le orecchie, per esempio, con il dito. Dito lavarsi acqua e normalmente, sapone, dito, ecco, che è sempre una bella cosa. No? Già, lavarsi le orecchie sarebbe un bel passaggio. Una gran bella idea. Ecco. Poi dopo ci sono, per chi ha delle dermatosi, magari delle gocce o dei lavaggi otologici che aiutano le ciglietta. Andiamo ad Alessandro da Verona, buongiorno. Li prendiamo un po' come delle cornicette agli interventi del dottor Franzetti. Un altro rumore fastidioso, Alessandro? Sì, buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Ecco, premetto che io soffro di acufene da quando avevo 20 anni, durante il servizio militare. Però la cosa che mi dà fastidio non sono tanto i rumori in sé, sia toni alti e toni bassi, bensì per esempio l'essere vicino a due persone che bisbigliano, che parlano sottovoce. Questo bisbigliare mi fa diventare nevrotico, devo alzarmi e andarmene. Oppure dire parlate ad alta voce così perché sento, sento. Capisco quello che dite. Alessandro, però lei ha dato uno stimolo straordinario al dottor Franzetti, che fuori onda ci raccontava che nella puntata avrebbe voluto insegnare ai nostri ascoltatori che soffrono di acufeni. Ricordiamo che gli acufeni sono quei fischi, sussurri, rumori vari che avvertiamo, che alcune persone avvertono soprattutto quando c'è silenzio nel loro orecchio. Anche il battito, no, del cuore dentro l'orecchio rientra in questo grande capitolo. Certo. Il dottor Franzetti aveva un'indicazione da dare. Vogliamo sì. darla subito? Allora, non è la risoluzione di tutti i mali, non è sufficiente per spiegare il problema degli acufeni, che non è a tema oggi, però c'è questa specie di giochino che è una specie di riabilitazione che io consiglio a tutti quelli che hanno un rumore di questo tipo fastidioso. Ci vorrebbe un po' un rullo del tamburo, perché a proposito di rumore, perché sai che io? L'acufene... Non è un grande, adesso lo faccio meglio. Allora, la cosa è questa. Ogni acufene, cioè ogni rumore, ha una frequenza. Quindi esiste una musica che in qualche modo ha le stesse frequenze del rumore che ci dà fastidio. La prima cosa è che ciascuno deve identificare una musica ascoltando la quale non sente più il suo rumore. Ha un volume che decide lui. C'è chi usa la musica zen, chi usa la musica new age, chi usa la musica classica, chi usa la musica che vuole lui. Techno? La rock no? Allora, chiaramente che se noi ci mettiamo Vasco Rossi a 150 decibel nelle orecchie, verosimilmente non sentiamo non solo l'acufene, ma non sentiamo più niente. Però, diciamo, a un volume normale, una musica che decidiamo noi, ci accorgiamo a un certo punto, tra le altre musiche, che questa musica non ci fa più sentire il rumore che sentiamo, perché lo maschera. Sì. Quando scopriamo questo, dobbiamo iniziare ad ascoltare questa musica a un volume che ci permette di risentire il nostro rumore. Cioè abbassiamo il volume, tac, ricompare il nostro rumore. A quel punto l'alziamo solo leggermente e facciamo un mese, 20 minuti tutti i giorni, ad ascoltare quel brano a quel volume, fin quando non sentiamo più il nostro acufene, nel senso che ci concentriamo sulla musica e non sentiamo il nostro rumore. Quando questo accade, benissimo, riabbassiamo la musica fin quando risentiamo il nostro acufene a quel volume, 20 minuti tutti i giorni, per un mese o comunque fin quando non sentiamo più il nostro acufene. Quando non lo sentiamo più, di nuovo abbassiamo la musica fino a quando non lo risentiamo ancora. Quando arriviamo a volume zero della musica, non c'è più l'acufene. No, sperimentatelo, poi fra un mese, ad inizio, alla fine della cura, raccontateci se avete ottenuto risultati. E noi inviteremo il dottor Franzetti e Vasco Rossi magari. Magari 800 24 00 24 sono pronti. Allora, sono pronti sono pronti i nostri suggerimenti, sì, per chi è in viaggio. Sì, anche Mauro da Milano, anche Davide da Catania. Qua erano tutti pronti, ero un po' indecisa. Sentiamo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Parliamo di udito. Oggi la capacità uditiva può diminuire progressivamente, ma in modo quasi impercettibile, tanto che spesso non ce ne accorgiamo e ci adattiamo a questa situazione. Oggi vogliamo invece concentrarci, prenderne consapevolezza, cercare di capire, insomma, lo stato di salute del nostro udito. Qui in studio con noi il dottor Andrea Franzetti, con cui ascoltiamo insieme la nostra scheda. Andiamo a sentire, vediamo se ci riconosciamo in qualche profilo e poi chiamiamo il nostro numero verde. Andiamo. Hai difficoltà a sentire se più persone parlano contemporaneamente? Senti bene al telefono o devi farti ripetere le parole? I tuoi familiari ti chiedono di abbassare la radio o la TV? Senti dei sibili, dei campanellini, dei ronzii? Hai difficoltà a capire la voce di una donna o di un bambino? Perdi il filo del discorso e di conseguenza rispondi in modo inappropriato? Alcuni suoni ti sembrano troppo forti? Fastidiosi? Dottor Franzetti, a proposito di suoni, abbiamo introdotto la parte di cuore di questa trasmissione parlando di misofonia, il fastidio che alcune persone provano nel sentire alcuni rumori, ad esempio quello che produce il vicino masticando, ma stiamo cercando di raccogliere tutti i suoni fastidiosi per confezionare una sorta di hit parade. A proposito di masticazioni, in alcuni casi durante la masticazione, cioè quando siamo noi a masticare, facciamo fatica ad ascoltare chiaramente una conversazione, la TV, un giornale radio. Che cosa ci racconta questo sintomo? Beh, sicuramente può esserci o un problema legato ai condili mandibolari, cioè la masticazione, perché l'osso trasmette il suono e quando noi mastichiamo, sgranocchiamo qualcosa, l'osso della mandibola trasmette, che si appoggia proprio sopra l'orecchio, il suono all'orecchio. A questo punto, se l'orecchio è perfettamente funzionante, è in grado di scomporre i suoni, sì, e non farci ascoltare il suono fastidioso come se ci fosse un filtro. Se l'orecchio invece, anche solo siamo raffreddati per esempio, sì, no, abbiamo dentro del catarro, cose del genere, accentua i suoni gravi e quindi questo, che è un suono che sarebbe tolto, invece diventa un fastidio. Per cui potrebbe anche essere che ci sia uno stato irritativo a livello dell'orecchio oppure un problema al condilo mandibolare. Dottor Franzetti, riprendiamo un po' il nostro orecchio. Ci sono delle situazioni che lo possono mettere in difficoltà. Sto pensando alle otiti. Ci stiamo avvicinando alla stagione fredda, è un classico, no? Si prende il raffreddore, si trascura un po', il raffreddore diventa poi mal d'orecchio, cerchiamo in qualche modo, se arriva sempre di notte, specie nei bambini. Poi l'otite passa, ma noi ci rendiamo conto che il nostro udito non è più quello di una volta, quello precedente all'otite. Che cosa è successo? Sì, allora una cosa prima di introduzione, perché è una raccomandazione che vorrei dare. Sì. Allora, non corrisponde alla comparsa di un'otite il fatto che si debba dare un antibiotico. Bravo. Perché questo è fondamentale. Prima ragione, perché quando c'è un'otite l'antibiotico nell'orecchio non ci arriva. Per quindi cui è inutile l'antibiotico prenderlo. Si dà per salvaguardare eventuali complicazioni, soprattutto nei bambini più piccoli, quando c'è un'otite che invece è un'otite più grave o purulenta o di una certa importanza. Quindi l'antibiotico non risolve l'otite. Se vogliamo mettere... Avete sentito bene? Come dell'antibiotico. Se vogliamo mettere l'antibiotico nell'orecchio, l'unico modo è metterci delle gocce antibiotiche dentro. Seconda cosa da sfatare, sì, anche se c'è una perforazione, si possono mettere le gocce nell'orecchio. Altro perché? Perché altra sono leggenda stati metropolitana. Fatti degli studi che la quantità di gocce che vengono messe nel condotto durante un'otite è impossibile che arrivi a contatto con quella parte che si chiama finestra rotonda o finestra ovale, che possono dare un danno alla parte nervosa dell'orecchio, perché c'è un muretto osseo, il muco e il catarro, tutto quello, lo stato infiammatorio della mucosa, quindi è impossibile suocera, che dai, questa cosa qui arrivi. Dai, una finestra tonda non l'avevo mai sentita. Ci sono due finestre, una ovale e una tonda. E questo era un domandone, mannaggia. Allora, dottor Franzetti, quindi allora otite, cerchiamo di affrontarla nel modo migliore, sì, per non rischiare l'udito. Che cosa si deve o non si deve fare? Allora, se l'otite viene di solito in conseguenza di un raffreddore, la prima cosa è curare il naso. Sì. Quindi la salute del naso e quindi la salute della tuba, che è il canalino che collega il naso con l'orecchio, è fondamentale, perché un'otite o si autoelimini da sola oppure non subentri. Poi ci sono, nelle forme catarrali protratte invernali, tutta una serie di cose preventive, tipo dei vaccini, degli immunostimolanti, delle cose che possono prevenire questo. Quindi la salute del naso. La salute del naso che vuol dire? Il raffreddore, lavaggi nasali? Che vuol dire? Non si rischia di esagerare? Che vuol dire, se c'è tanto muco che non si riesce a espellere, ha senso fare i lavaggi nasali. Quando si fanno i lavaggi nasali ai bambini, però, mi raccomando, delicatamente, perché uno spruzzo forte fatto nel naso spinge il muco che il bambino ha nel naso nella tuba, quindi glielo mandiamo dentro noi. Quindi deve essere fatto delicatamente nella parte esterna. Poi aerosol, chi ha la possibilità, anche le cure termali sono sicuramente una mano santa proprio per cercare di evitare i fattori, oppure andare a svernare le Maldive. È quello. Mi pare la miglior ricetta che si sia mai sentita nell'ultimo ciclo. Vedi, di questa è una ricetta di cuore, ma per farla, ma per molto, realizzarla, ci vogliono denari. Tanti denari. Esatto. Tu devi darci il modo per andate in bassa stagione. No, poi io sostengo molto l'uso delle gocce otologiche. Siamo qua anche a scopo preventivo, cioè chi sviluppa spesso delle otiti in inverno può mettere periodicamente, ci sono delle gocce disinfettanti da mettere nell'orecchio la sera, che salvaguarda la comparsa di fenomeni infiammatori della membrana timpanica. Però per dei brevi cicli, sì, che poi è un po' rischioso. Sì, di solito si fanno 8-10 giorni tutti i mesi. Ok, allora facciamo un'infornata di ascoltatori. Sentiamo Mauro da Milano, perché già insomma il rumore che lo infastidisce ci incuriosisce molto. Mauro, benvenuto. Sta povera donna. Buongiorno. Cosa deve fare? No. Io ho 68 anni, anche se ne dimostro 67 e mezzo. Bravo. Comunque, ho ascoltato con grande interesse quello che avete detto fino adesso, perché mi sono reso conto che da alcuni mesi sono infastidito da rumori dei quali prima non conoscevo neppure l'esistenza. Per esempio, quando siamo a tavola e mia moglie mangia, se sgranocchia qualcosa, all'inizio ero infastidito, ma adesso addirittura mi innervosisco, e questa cosa non succede solamente, non lo so, con prodotti secchi o pane fresco. Anche la mozzarella, insomma, non può mangiare. Quando inizierà a darle fastidio quando respira, allora la situazione è grave. Allora, dottor Franzetti, questa sensibilità improvvisa può aumentare, quindi sembra che di misofonia ne soffra il 20% della popolazione. Ah, il dato l'ho trovato su una ricerca, però non sono andata poi a vedere esattamente le fonti. Comunque, dalle telefonate dei nostri ascoltatori sembra abbastanza diffuso questo problema. Ma allora, il confine tra la non sopportazione di una persona e la percezione alterata dello stimolo è molto sottile, per cui io cercherei proprio di fare prima di tutto un esame di coscienza sulla non sopportabilità della persona. E poi eventualmente mai facciamo un approfondimento dell'udito. Un'implicazione di questo tipo. La somatizzazione. Un psicotorinologo, non lo so. Dottor Franzetti, adesso. Grazie per essere stato grazie con noi. Torni presto. Noi torniamo domani, intanto, così per non saperne leggere né scrivere, appuntamento domattina alle 10:30 con Cuore Denari. Buona giornata.